and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e uno da Drago. Uno cosa? Cosa? Io ho detto un saluto da K. Tu hai detto e uno da Drago. Uno cosa? Un saluto K, non è così difficile, è l'uso pronominale dell'articolo indeterminativo. Ecco, vedi, parli di grammatica, si aziona il tutto. Allora, dai, e comunque è brutto, cosa? È meglio dire un saluto da K e un saluto da Drago, oppure un saluto da K e da Drago, capito? Vabbè, ma stavo spiegando. Ma vuoi smettere di far confusione? Ma sei tu che fai confusione, scateni il titolo. Vabbè, dai, oggi cominciamo di nuovo. Riparliamo di un argomento di cui abbiamo già parlato precedentemente, cioè l'educazione alimentare. Perché qui da Chiedo Asilo vorremmo chiedere appunto al ministro Bambina Gelmini di contattare Alice Waters. Chi? Alice Waters, una ristoratrice californiana molto famosa e anche vicepresidente di Slow Food International, che è un po' l'ONU del cibo. Sì, no? Vabbè. E cosa dovrebbe fare Alice Waters o Alice Waters per il ministro Bambina Gelmini? Innanzitutto darle qualcosa da mangiare, che poveretta dimagrisce a vista d'occhio, e poi dovrebbe anche insegnarle come si convincono le scuole a organizzare dei corsi di agricoltura, insomma, l'orto in classe, no? No, come in classe? Beh, non proprio in classe, dai, fuori dalla scuola, in un terreno apposito, insomma, in America ormai sono tantissime le scuole che fanno l'ora di agricoltura. Sì, ma in Italia le scuole sono disastrate, dove lo fai l'orto? Già non hanno i bagni. Comunque, fare in bagno, appunto. Comunque, guarda che anche la bambina Michelle Obama ha fatto l'orto alla Casa Bianca, e continua a insegnare in televisione ai bambini e non solo come si coltivano le carote, i pomodori, le zucchine, i broccoli. Senti qua. Broccoli, what else did we plant? We did some sweet potatoes and peas. We did some peas and we did some onions and we did a bunch of herbs. Don't you remember we did chives and garlic and rosemary and all that good stuff? Che poi dicono che le verdure coltivate nell'orto della Casa Bianca siano eccezionali. Buone, eccezionali. Certo, Obama al pollice verde. Cetrioli, patate. Sì, vabbè, cipolle, peperoni, pomodori. Zucchine, sì, tante verdure. Dobbiamo dirle tutte, dai, allora. Quindi, ministro Bambina Gelmini, per il bene dei nostri bambini, apra le scuole alla coltivazione. Insomma, tra l'altro l'hanno già fatto a fine agosto, vicino a Venezia, nell'orto botanico di una scuola elementare, i carabinieri hanno trovato delle piantine di marijuana, quindi ci hanno provato anche lì, capito? Tra l'altro abbiamo la registrazione di quando i carabinieri sono entrati nell'asilo, sentiamo. Cineastica, alto, bira, sima, diplomato. Senti che allegria, no? Ma non si capisce niente, cosa dice? Ma per forza, sono tutti drogati, Drago. Dov'è sto posto? È vicino a Venezia. Venezia, vicino a Venezia. Si chiama Spinea. Vabbè, se si chiama Spinea, allora, vabbè, ci credo che si è trovato la marijuana, eh. Certo che la marijuana a scuola è una cosa che non so se Michelle Obama sarebbe tanto d'accordo. No, certo che no, lei vuole gli orti, i pomodori. Anche se. Cosa, anche se? Ah, dai, anagraficamente Michelle Obama può essere una che ogni tanto, non so, prima di andare a dormire. Ma mica tutti quelli di quella generazione si fanno le canne. Ma smettila, lei preferisce le verdure, i pomodori, le zucchine, le carote soprattutto. Le carote. Le carote. Ma chiediamolo a suo marito, bambino presidente Obama. Yes! Possiamo dire che sua moglie ha le canne e preferisce le carote? Tritate, eh? Yes, you can. Oh, oggi è martedì, martedì è il giorno del talent show. Preparatevi perché tra poco ci sarà la prima emozionante puntata del talent show di Chiedo Asilo, Kid Factor. K, emozionante, lascialo a quelli della TV, che si emozionano. No, guarda che io mi sono emozionato davvero, lo sento. Cari bambini, l'ascolto a malincuore, purtroppo alla faccia del nostro intento pedagogico e dell'impegno che ce l'avamo prefissi, dobbiamo sottostare alle bieche regole del commercio. Vabbè, adesso non e anche, anche Radio 24 ha dovuto cedere perché inizialmente aveva dei dubbi, come avete sentito l'altra volta. Però, visti chiari di luna, il consiglio di amministrazione in seduta plenaria ha deliberato che fare un programma radio sui bambini, coi bambini, per i bambini, senza mettergli dentro uno straccio di talent show, era una mossa da perdenti, per cui eccoci Vabbè, qua. Adesso hai fatto il tuo mea culpa, partiamo con Kid Factor, dai, tranquilli, perché invece sarà bellissimo ed emozionante. Basta con sto emozionante. Drago, l'emozione, come un flusso, come un'onda magica, no? È quello che conta nei talent show, è l'emozione che deve arrivare. Ma lo sai, se un cantante non arriva, non arriva. Non arriva perché ha perso il treno, no? Ma no, se non arriva non emoziona e se non emoziona poi alla fine... Ecco, ma capa, dai, per cortesia, Vabbè. Allora, Pietro in regia, per favore, lancia la sigla di Kid Factor. Vai, Drago, fai lo speakeraggio. Kid Factor. Ma no, mettici un po' di emozione, dai. Kid Factor. Allora, la formula è quella nota: una squadra a me e una squadra a K. Per fare prima, però, abbiamo deciso di avere un solo artista a testa, e quindi oggi sentiremo in ordine il mio artista e poi quello di K. No, perché, scusa? Ma dai, è uguale, K. Ma non è uguale! Dai, vuoi che cominciamo col tuo? Va bene, cominciamo col tuo. No, no, se vuoi cominciamo col tuo. Io so dove vuoi arrivare. Tu vuoi arrivare al bim bum bam. Vabbè, vabbè, dai, comincia tu. Allora comincio io? Dai, vai, su! Bambini in ascolto, attenzione, a 6 anni, viene da Albarè, vicino al lago di Garda. Scrive canzoni e le esegue con una grinta tutta punk in dialetto veneto. Accogliamo con un bel applauso Seba, che canta Go Fame. E piace le polpette? Casime cotolette. Cosa fa? Suona le pentole? Con le spaghetti. È punk acustico. Niente, scatolette. Scatolette. Sono la babona. Anche la salata. Ma cos'è? Catalogna. Ma cos'è? Ho fame. Ho fame. Così me la mangia. Datemi da mangiare. Ho fame. Allora? Allora, K, hai sentito? Ma dai, questo è un Seba, casinista, mica è un cantante. Ho detto che era punk, ma quindi sì, è punk, punk, no? Il ma pezzo, che è punk? Guarda che il pezzo è il suo originale, parla di lui che ha fame, che quindi mangia le cotolette, si è capito, le polpette. Non è che devi spiegarmi il testo, si capisce. Il testo è importante, eh? E poi hai sentito che tiro, sembra proprio Gogol Bordello, no? No, sì, di bordello ne fa, manca un po' di Gogol o Gogol. Però, scusa, sentiamo i giudici ufficiali cosa ne pensano, il bambino Elio e la bambina Maionchi. Non ho capito bene come canti. Il tuo modo di cantare. Non mi ha fatto capire chi sei. No, vedi, vabbè, non gli ha fatto capire chi vabbè, è. Ma no, perché lui è un punk e questi poverini ma hanno niente anche a che vedere diversi con il mio artista, che non scrive canzoni a casaccio come Seba, ma invece interpreta con gusto grandi canzoni del passato, in stile emo, no? In stile? Emo. Emo, cioè? Cioè adesso senti, dai, facciamo la presentazione. Allora, falla tu che ti viene meglio. A 7 anni è austro, canadese, olandese, svizzero. Ma cos'è? Ma capo, ma come faccio a fare una presentazione così? Ma cosa ti devo dire? Così, sua madre è canadese, svizzera, il padre è austriaco e olandese, va così, dai, vai. A 7 anni è austro, canadese, olandese, svizzero. Si chiama Dini, ma non è Lamberto Dini, quello dei Simpson. Ma vedi, cos'è? Vabbè, adesso cosa dici? Io ho letto la presentazione, cosa c'entra non lo so. Allora, dove eravamo rimasti? Ecco, allora, si chiama Dini, canta delle cover in stile emo e comincia con un grande classico, Satisfaction dei Rolling Stones. Accogliamo con un bel applauso anche Dini. Ma fa venire sonno, però. Perché c'è tutta la sofferenza, che sonno? Sofferenza. È l'emozione. No, perché è austro-canadese. E allora non capisce bene. Senti, senti. Senti, senti come soffre l'emozione. Questo Dini, no, no, questo Dini ce l'ha il Kid Factor. Forse ce l'ha, bravino, però rispetto a Seba un po' moscio. Ma no? Non è moscio, è emo. Ma è la stessa cosa. Ma tu non capisci emo, niente, lascia moscio dire ai giudici ufficiali. Senti, senti il bambino Ruggeri. Mi meraviglia di me stesso il fatto che non ti abbia ancora capito. Eh beh, ma Ruggeri, vecchio spirito punk, preferisce sicuramente Seba. Ma guarda che invece la bambina Tatangelo, lei sì che capisce di musica. Invece io trovo che hai qualcosa da dire, da tirar fuori. Vedi? Lei è sull'emozione. Certo, la bambina Tatangelo si aspetta che Dini tiri fuori qualcosa. L'emozione, Draghi, di cosa stai parlando? L'emozione. Va bene, dai. Comunque è facile votare. Siete voi da casa che voterete chi vincerà Kid Factor quest'anno, anche perché è il primo anno. Potete farlo scrivendo a Chiedo Asilo, chiocciolina, quella con le cornettine e il guscio, radio24.it. E beh, ci sono i bambini, bisogna dire chiocciolina, no? Se dici et. Ma no, ma è già finito. Ma sei sempre contento quando ma è finito. Ma adesso c'è cos'è? La talent show, Drago, mi stavo emozionando. Finalmente il flusso di emozione mi stava arrivando, l'onda magica. Ma lascia però che i nostri bambini all'ascolto possano andare appunto a riascoltarsi le canzoni di Dini e quella di Seba sul nostro sito, sul sito di Radio 24. E poi possono votare, ci mandano una mail e ci dicono chi preferisce. E io sono sicuro di chi vincerà. Anch'io sono sicuro di chi vincerà. Vedremo. Seba, Seba con vedremo la canzone Go Fame. Vedremo, votate Dini, votate Dini, votate Dini. Yeah. domani. E votate per Kid Factor a chiedoasilo@radio24.it. Chiedo asilo.